guarda su, guarda in giù. Sii felice ora anche tu. Tutto è lieto, tutto è bello. Ritmo non ti stanca, la, la, la, la, la, la, la. È Natale a